Ecco, noi Giovanni Piscaglia, regista del documentario Van Gogh tra il grano e il cielo, che avrà un'uscita evento dal 9 all'11 aprile. Giovanni, ben trovato. Grazie, grazie, eccomi. Ci racconti di questo lavoro? Dunque, sì, si tratta di un film documentario che narra di due storie, biografie parallele in un certo senso, quella di Van Gogh come artista e quella di Helene Kroller-Miller come collezionista e scopritrice, tra le prime, del talento di Van Gogh. Il documentario si apre proprio con una prima, diciamo, primo capitolo proprio ad Otterlo, dove oggi c'è il museo intitolato a Helene Kroller-Miller, che si basa proprio sul suo lascito, e si indaga la sua figura e fu appunto, come dicevo, tra le prime ad essere affascinato da Helene di Van Gogh, benché le loro due esistenze non si incontrarono mai. Insomma, lei lo scoprì quando lui era già morto e da subito ne venne colpita e la sua vita in un certo senso cambiò grazie alla sua conoscenza, perché trovò in lui una controparte, un'interfaccia, quasi un confessore a posteriori col quale condivideva delle ansie esistenziali, una sorta di una visione particolare della vita, un po' soprattutto, ecco, malinconica, ma una fascinazione per il mondo che trovava simile a quella che aveva Van Gogh. Sì. Giovanni, com'è partito questo progetto? Qual è stata l'idea? L'idea è stata quella innanzitutto valorizzare e conoscere meglio questa storia collaterale a quella di Van Gogh, che forse tutti o perlomeno in tanti conosciamo. L'idea parte dal fatto che c'è una mostra ancora in corso a Vicenza, la Basilica Palladiana, che si chiama proprio come il film Van Gogh tra il grano e il cielo. Attraverso questa mostra, diciamo appunto il movente è proprio il fatto che questa mostra, messa in piedi da Marco Goldin, trae proprio da Kroller-Miller gran parte dei capolavori che mette in mostra. E quindi valeva la pena andare a indagare quello che lì, varie storie che erano insite in questo progetto espositivo. Però il film è anche molto altro, perché si tratta di un film che consta non soltanto di questo, diciamo, di questa ricostruzione un po' biografica documentaristica, ma si compone di tante suggestioni, è una sorta di ha una struttura non a capitoli, ma diciamo, ci sono tanti discorsi che si intersecano, si parte dalla mostra e poi si va in alcuni luoghi di Van Gogh in cui lui ha vissuto, oppure in luoghi che sono stati da lui ritratti, e quindi diciamo è una sorta di film viaggio. Sì. Senti, di base leggevo che c'è anche un vasto materiale epistolare. Esatto, infatti la loro simile, diciamo, le loro similitudini passano soprattutto per queste lettere. Entrambi erano, diciamo, dei grafomani, entrambi amavano o avevano l'urgenza, la necessità di raccontarsi attraverso le lettere. Lei conobbe le lettere di Van Gogh e leggendole comprese molto di sé, mentre Van Gogh, attraverso le lettere, ci lascia tutto quello che poi è stato un po' rielaborato come la leggenda di Van Gogh, cioè un'interiorità molto turbolenta, molto, diciamo, molto particolare, soprattutto un'ansia di restituire la sua visione del mondo attraverso la pittura. Ho Oh, vedo che anche la colonna sonora si avvale di delle composizioni originali. Mangiovino è stata una grande, insomma, scoperta dal punto di vista professionale e personale. Io sin dal primo incontro a Remo ho chiesto, insomma, di pensare a una colonna sonora molto cinematografica che riuscisse a restituire delle grandi aperture a declinare, a, diciamo, sottolineare, declinare, trainare le immagini in una maniera sentimentale e in un certo senso interiore, ecco, che riuscisse a trasmettere dei sentimenti veri e propri. Abbiamo entrambi fatto un percorso simile, io e lui, anche se chiaramente Remo è intervenuto a riprese finite, però abbiamo entrambi lavorato su un senso, diciamo, una connessione che abbiamo cercato di stabilire con Van Gogh sul piano sentimentale. Io ho cercato di spogliarmi di tutte le conoscenze, diciamo, leggendarie, di tutto il mito che Van Gogh porta con sé, dell'artista pazzo. Soprattutto, ecco, ho cercato quindi di andare un po', di mettermi davanti alle situazioni che potevano essere state quelle vissute da Van Gogh e davanti ai luoghi in cui Van Gogh ha dipinto. E così ha fatto lui, in un certo senso, lui soprattutto attraverso le lettere, poi abbiamo ovviamente parlato dei momenti più nodali che doveva avere, insomma, il montaggio, il film, e lui, ecco, anche attraverso le lettere è riuscito ad andare molto all'interno della psicologia di Van Gogh, dello spirito di Van Gogh. La colonna sonora è a mio avviso, una perla, uno dei valori assoluti del film. In chiusura, Giovanni, anche sulla scorta di questa tua ricerca, cosa ami dell'opera di Van Gogh? Mi interessa sicuramente l'idea della vocazione che Van Gogh aveva. Van Gogh sentiva ed era un diverso. Questa diversità risolveva proprio questo impulso. Lui aveva bisogno di creare e questo suo impulso lo portava sempre più nel profondo, diciamo, nella conoscenza di se stesso e nell'indagine del mondo. Mi piace questo, mi piace come è riuscito a guardare il mondo, a sentirsene parte, a partecipare di sensazioni più che di cose veramente tangibili. Ecco, lui era riuscito a stabilire un ponte tra ciò che la realtà sottintende, quindi di trascendente, e il modo di restituire questa realtà attraverso l'arte. L'arte era un ponte per lui. Lui non dipingeva quello che tutti vedono, ma dipingeva quello che attraverso il dato sensibile lui riusciva a percepire. Per lui quello era Dio, e la sua ricerca pittorica era legata alla sua ricerca interiore. E questo, secondo me, è un grandissimo lascito anche, come dire, per tutti è un bel esercizio. L'ho vissuto io durante le riprese, ho cercato di mantenerlo come spirito, di realizzazione del film, però è un bel esercizio quello di guardare la realtà al netto di tutti i tempi della modernità, al netto di tutte le sovrastrutture, cercando di vedere oltre ciò che è visibile. Benissimo. Allora ricordiamo il documentario Van Gogh tra il grano e il cielo, un'uscita evento dal 9 all'11 aprile. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Piscaglia. Giovanni, Grazie a un te. in bocca al lupo e alla prossima. Un bel lupo, come si dice oggi. Alla prossima, presto. Buona visione.